la tifoseria laziale, insomma, ha continuato una sorta di lavoro che a Roma è molto, molto diffuso, cioè i primi a utilizzare Anna Frank per dargli della laziale sono stati i romanisti nel 2013-2014. Probabilmente hanno approfittato di questo momento un po' per vendicarsi andando in curva sud. E per cui, certo, brutta l'immagine, brutto quello che vuoi, cioè sicuramente c'è un fondo di razzismo in tutto questo, ma insomma non l'abbiamo scoperto oggi, non è da ieri che c'è, soprattutto nel caso di alcune frange della Lazio, è ben radicato e ben diffuso. Il problema vero è che ogni tanto, insomma, questi casi qua diventano eclatanti, molto spesso passano sotto silenzio, ogni tanto prendono le prime pagine dei giornali, e prendendo le prime pagine dei giornali dopo tutti si indignano, tutti cercano di fare qualcosa, di risolvere la situazione, chiaramente con iniziative spot che durano l'arco di una giornata, di due giornate, di tre giornate, e poi ritornano il tutto nel silenzio, nel dimenticatoio, e si ricomincia a fare come prima, e i comportamenti riverranno fuori, comportamenti anche razzisti, fra sei mesi, tre mesi, due mesi, insomma. E questo è il vero dramma italiano, che si lavora sempre sull'emergenza, si risponde sempre in maniera per far vedere che ci si indigna di fronte a degli atteggiamenti che non vanno bene, ma non si lavora mai nel concreto, operativamente, giorno per giorno. Noi per esempio ieri siamo usciti con un paio di dichiarazioni dicendo bene, nel senso nulla di nuovo, è che per esempio in questo caso i padroni del calcio, il Lotito che piange davanti alla comunità ebraica, di queste cose se ne ricordano solo quando sono sotto i riflettori, poi dopo non fanno nulla. Noi avevamo fatto un progetto come WISP 2 anni fa che si chiamava Il Calcio Storico, coinvolgendo la Lega di Serie A e tutte le società calcistiche di Serie A nelle scuole, sull'educazione. Uno dei nostri cavalli di battaglia era appunto Arp Advice, per cui insomma l'allenatore di origine ebraica che a Bologna ha conquistato, ha fatto tremare il mondo, e questo progetto qua è andato benissimo, ha utilizzato anche testimonial nelle scuole, poi dopo un anno non è stato più risostenuto dalla Lega di Serie A, appunto per la litigiosità di questi, dell'entourage della Lega, dei vari presidenti della Lega, che piuttosto sono molto più interessati a litigare, insomma, rispetto a due spicci dei diritti TV. Non sono due spicci, sono molti più soldi, ma insomma pensano solo ai soldi, non pensano minimamente alla responsabilità sociale che hanno, che possono avere, che dovrebbero avere durante tutto l'anno, perché loro gestiscono un'immagine e un indotto anche di carattere sociale che dovrebbe inchiodarle a questa responsabilità sociale. Purtroppo non ce l'hanno, noi abbiamo riproposto di eventualmente di ripensare a dei progetti stile i calciastorie che lavorassero nel profondo nel cambio di mentalità e di identità del calcio italiano. Allora, intanto non l'hai fatto tu, lo faccio io, perché grazie all'esperienza dei mondiali antirazzisti possiamo dire che esiste anche un'altra tifoseria laziale che partecipa spesso appunto ai mondiali antirazzisti, il gruppo Lazionet, e hanno idee ben diverse. Però quello che dicevi tu è interessante, quindi c'è la possibilità di lavorare in altro modo, quindi non tanto con le cose simboliche della maglia indossata di Anna Frank sul campo, la lettura di brani del diario di Anna Frank, ma con progetti più strutturati che possono incidere di più. Assolutamente sì, c'è tutto un lavoro che si potrebbe fare utilizzando come testimonial gli stessi giocatori, ma non giocatori impreparati che arrivano là in maniera sporadica, giocatori anche in parte formati, rispetto, prendendo anche quelli che hanno chiaramente più sensibilità. Faccio l'esempio anche a Bologna, lo stesso Masina può essere un utile testimoniano in questo senso, perché puoi trovare delle sensibilità anche rispetto ai giocatori. Le società li devono un attimo, da questo punto di vista, prestare a questi tipi di progetti, e devono crederci fino in fondo, probabilmente investendo anche loro stessi dei soldi nella stessa comunità di provenienza. Dovrebbero andare nelle scuole, potrebbero fare degli incontri con gli stessi tifosi, però incontri strutturati. Non devono i giocatori poi pensare al gol che faranno la domenica o quello che hanno fatto la domenica prima, devono parlare e intervenire su alcuni temi, accompagnati da gente che di questo sa. Secondo me dei percorsi di questo tipo, che creano comunque una comunità basata anche su dei valori di inclusione piuttosto che di esclusione, potrebbe nel medio e nel lungo periodo portare dei vantaggi incredibili. Il problema è che se non ci credono gli stessi presidenti, che sono i proprietari dei club calcistici, se non ci crede l'istituzione calcio, si fa fatica ad andare avanti su questa strada.